Comuni e regioni. In Italia ci sono 8.101 comuni e 20 regioni. Hanno lo scopo di rendere efficiente la gestione di specifici servizi, di pianificare il territorio e lo sviluppo sociale e di rendere più democratica e diretta la gestione della macchina statale. Ecco le regioni con i rispettivi capoluoghi. La Valle d'Aosta, Aosta. Il Piemonte, Torino. La Liguria, Genova. La Lombardia, Milano. Il Trentino Alto Adige, Trento. Il Veneto, Venezia. Il Friuli Venezia Giulia, Trieste. L'Emilia Romagna, Bologna. La Toscana, Firenze. Le Marche, Ancona. L'Umbria, Perugia. Il Lazio, Roma. L'Abruzzo, L'Aquila. Il Molise, Campobasso. La Campania, Napoli. La Basilicata, Potenza. La Puglia, Bari. La Calabria, Catanzaro. La Sicilia, Palermo. E la Sardegna, Cagliari. La Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Sicilia e la Sardegna sono regioni a statuto speciale. Questo significa che queste cinque regioni godono di particolari forme e condizioni di autonomia, per una o più delle seguenti ragioni: particolari caratteristiche etniche e linguistiche, originale collocazione geografica, esigenze di sviluppo economico unite all'iniziativa politica locale dei partiti.